America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Beh, perché sono a Washington? Perché c'è stato il grande evento annuale degli italo-americani, National Italian American Foundation. E beh, è un evento, devo dire, che crea sempre un grande ponte transatlantico fra noi e i nostri cugini americani. Cominciamo da questa interpretazione di uno dei partecipanti alla festa. Sentite la qualità di questo tenore alla Pavarotti. Festone, devo dire, emozioni degli italoamericani, ricordi di nonni, misdonni che sono immigrati negli Stati Uniti con niente. Per noi, in rappresentanza dei cugini italiani, c'erano il ministro dell'industria Federica Guidi e Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, premiata come regione d'onore. Ecco, devo dire, non c'è stato soltanto il gala, perché tra venerdì, sabato e domenica ci sono stati convegni, riunioni con un tema centrale, un tema molto importante, Expo 2015. Se ne è parlato al congresso. Joseph Del Raso, il presidente del NIAF, ha organizzato un piccolo dibattito. Se ne è parlato in ambasciata con l'ambasciatore americano in Italia John Phillips e con il nostro ambasciatore a Washington Claudio Bisognero. C'è stato, devo dire, anche un intervento del gruppo Sole 24 Ore con il nostro amministratore delegato Donatella Treu per parlare di apertura, perché Expo 2015 significa apertura, significa un abbraccio al mondo. Ebbene, il Sole 24 Ore ha lanciato proprio a Washington un'anteprima di un quotidiano digitale interamente fatto in inglese che sarà lanciato alla fine di questa settimana. Feeding the planet, energy for life is the theme of Expo Milan 2015. Tema forte, tema centrale, la sostenibilità alimentare, ma tema forte di questa missione dei nostri politici attorno all'evento del NIAF è anche un po' quella di incoraggiare la partecipazione americana, perché l'America sarà presente a Expo 2015. Devo dire però che rispetto ad altri paesi è stranamente indietro. Pensate, per fare il padiglione tra l'altro bellissimo, occorrono circa 55-56 milioni di dollari. Finora ne sono stati raccolti appena 25. Molte aziende, vi dicevo, hanno già partecipato, ma altre sono fuori. Google, Apple, che pure non hanno problemi di cash, come si dice, ancora non sono entrate. E dunque sentiamo cosa i nostri rappresentanti politici hanno dedotto da questi loro incontri. Cominciamo con Maroni. Noi siamo qui per promuovere Expo, per dire quanto è bello partecipare e per far in modo che i temi di Expo siano diffusi, nutrire il pianeta, energia per la vita. Quindi l'obiettivo è di convincere gli americani a venire in Italia, ma anche di diffondere la cultura della lotta alla contraffazione alimentare. Questo è il tema su cui la Regione Lombardia è molto impegnata assieme al governo. Lei pensa che gli italoamericani possano aiutare per rafforzare, diciamo, quei fondi di cui c'è bisogno per andare avanti col padiglione americano dell'Expo? Va portato anche quel messaggio? Beh, certamente, noi ce lo auguriamo. Noi siamo naturalmente convinti, ecco, che questa straordinaria storia di successo che esiste già fra America e Stati Uniti non possa che consolidarsi ulteriormente, e naturalmente in un momento così importante come Expo ci aspettiamo che quel pezzo d'Italia, in qualche modo, che questi imprenditori oggi ancora continuano a rappresentare qui, possa sostenere, naturalmente essere, diciamo, un attore fondamentale rispetto alla manifestazione di Milano. Ecco, a Washington c'era anche il ministro Guidi, devo dire si è occupata anche di liberalizzazione commerciale, ha avuto degli incontri politici. Da quel che mi ha detto, la situazione è un po' indietro per raggiungere il consenso sul TTIP. Maroni invece è molto preoccupato dal fatto che ci siano 60 miliardi, pensate, 60 miliardi di prodotti agroalimentari che vengono venduti nel mondo con denominazione italiana senza essere italiani, che sono il doppio di quella che è la nostra produzione agroalimentare. Ma torniamo alla festa, al gala, alla serata, con Maria Bartiromo, sentiamola. The city of Marino has bestowed on me an amazing honor, a distinction of being a top journalist. I am set to go to Urbino at some point to visit the local government there, but I want to make sure that you all know how grateful I am for this amazing honor that the city of Urbino has bestowed on me. So thank you, and a big round of applause for the Italian government and Urbino. Ecco, la Bartiromo, grande giornalista televisiva americana, ha detto che si sta preparando ad andare a Urbino per ritirare quel premio di cui vi parlai tempo fa. Fece un'intervista proprio con Maria. Quali sono stati gli altri premiati? Beh, Daniel Daniello, che è presidente del Carlyle Group, uno dei più importanti gruppi finanziari americani, che ha ricevuto il premio per il business. David Cordani, presidente di Senia. Infine, John Turturro. John Turturro, grande attore, che ha ricevuto il premio per l'arte. My great-grandmother gets an Ellis Island. She has an eye infection. They send her back to Italy. Now you have to have Ebola if you get into the United States of America. Di nuovo Gio Piscopo nella serata, una serata, devo dire, molto movimentata. Gio Piscopo che racconta di sua nonna che, arrivando come immigrata in America, era stata rimandata in Italia, parliamo di molti decenni fa, perché aveva un'infezione all'occhio. Pensate, dice, un'infezione all'occhio. Oggi invece tutti arrivano ed entrano con Ebola. Come vi dicevo, il tema è caldissimo. Forse Gio Piscopo non ha una posizione molto politically correct. Ma sentiamo uno degli interventi più, come dire, emozionanti della serata, uno dei premiati più importanti, il grande attore John Turturro. Italy is a place that I have come to love and understand a lot better. To work there among friends is to feel like I'm going home. And yet I'm from America, and it's a country and a place that I don't take for granted. We are a nation of immigrants. And in this mixture of cultures is what makes this country unique and strong. We are the great experiment. To assimilate, to become an American, is a long, circuitous journey. But at the same time, we shouldn't forget and erase the tremendous sacrifice our relatives made to get us here. I share your acknowledgement of my work with my parents, Nicholas and Catherine, who I wish was here tonight with me. Thank you very much. Ecco, la sala era in assoluto silenzio quando ha parlato Turturro, un discorso commovente. Uno dei passaggi fondamentali è questo, dice: con gli anni ho imparato a capire, ad amare l'Italia, lavorare lì tra gli amici è come tornare a casa, eppure sono americano, un paese che non do mai per scontato. Siamo una nazione di immigrati e questo mix di culture è ciò che rende questo paese unico e forte. Siamo un grande esperimento, diventare americani è un viaggio lungo e difficile, che parte con il grande sacrificio di coloro che ci hanno consentito di arrivare fino a questo punto, che non dovremo mai dimenticare. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di italoamericani, non potevamo che ricorrere a Frank Sinatra, Dean Martin. Ho trovato un classico poco conosciuto, ma che merita davvero. I due live che cantano insieme We Are Glad We Are Italian. Siamo felici di essere italiani. Food Asian, Caucasian, that's for Sadie Banks. Sadie Banks. Will someone pass a scallion? Which way is Sicily? We're glad that we're Italian, but yes, sorry. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.